9 in punto. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, buongiorno da Simone Spezia. Insomma, siete contenti? Il governo ha messo la fiducia sul decreto del fare. Un decreto, diciamo la verità, no? Che interviene su alcuni snodi, si è detto, con azioni con il cacciavite. Beh, insomma, forse servirebbe il martello pneumatico in questo paese. Unioncamere calcola che nel 2013 si perderanno altri 250.000 posti di lavoro. È di crisi che continuiamo a parlare anche oggi per tenere concentrata l'attenzione su tutto quello che sta succedendo. Decreto del fare cosa? Ci sono alcuni interventi interessanti. Ci sono alcuni problemi da segnalare, tanto per fare un esempio, i 20 milioni che sono stati tolti alla banda larga per darli alle emittenti TV locali. C'è il DURT, ci scrive Enza via SMS, il DURT sono 3 anni che lo dobbiamo presentare nuovo, è un documento assurdo e voi arrivate ora. No, no Enza, ce n'è uno nuovo, c'è il DURT, il documento unico di regolarità tributaria che già crea parecchie preoccupazioni alle imprese, soprattutto nell'edilizia. E però oggi vogliamo partire, anche se la puntata è aperta, vi aspetto tutti su tutti questi argomenti qua, all'800 24 00 24, vi aspetto tutti, però partiamo dalla casa, o meglio, dall'IMU, la maledetta IMU. Doveva arrivare una riforma entro la metà di agosto, poi alla fine cabine di regia, incontri, vertici di maggioranza, insomma, solite cose. Alla fine si è trovato un grandissimo accordo sul metodo, naturalmente. I partiti presenteranno le proposte, Saccomanni le vaglierà. Mi chiedo, francamente, con tutto le cose che sono uscite, i documenti che sono usciti e le dichiarazioni che sono uscite sull'IMU in questi mesi, mi chiedo che cosa abbiano ancora da dire i partiti e che cosa abbia un ministro tecnico come Fabrizio Saccomanni da imparare dai partiti, in tutta franchezza. Però, insomma, parliamo di questo e partiamo da questo. Buongiorno Rinaldo Lombardo. Buongiorno a lei. Eccolo qua. Allora, lei è un artigiano, meglio un ex artigiano, in pensione. Pensionato, sì, di 76 anni, sono cieco ventesimista. Cieco ventesimista, la fermo. Ma ascolti, cieco ventesimista che vuol dire? Che praticamente vedo quasi niente, vedo qualche ombra, o se mi passa una mano davanti vedo l'ombra della mano che passa davanti, in sostanza. Allora, che cosa faceva? Che artigiano era lei? Ho fatto diversi mestieri, l'ultimo dei quali era il cartellonista pubblicitario, con scritturazione cartelli, allestimento vetrine e così via. Quanto prende di pensione lei? Raggiungo malapena i 1.000 euro, incluso un piccolo sussidio che come il cieco ventesimista mi spetterebbe di diritto. Naturalmente. Allora, il suo problema però è un problema di IMU, ma non è un problema di casa. No, è un problema di IMU perché quando lavoravo come artigiano, con grandi sacrifici, ero riuscito a comprare i 2 fondi che mi servivano per l'attività, anche pensando al futuro. E quando poi sono entrato in pensione, li ho affittati a 2 ditte distinte. 2 anni fa, una dietro l'altra, le 2 ditte hanno chiuso per le ragioni che ormai non mi dilungo, sapete tutti. Ovviamente per la situazione economica. Da quel momento in poi non ho più avuto introiti, però ho dovuto continuare a pagare l'ICI e successivamente l'IMU. Ho dato fondo a tutti quelli che erano stati i miei risparmi e a questo punto dai 1.000 euro di pensione che mi trovo devo anche tirare fuori l'IMU per pagare a questi due. A quanto ammonta? Che cosa? L'IMU, quanto? L'IMU ammonta, mi sembra così, a occhio e croce, a 4.000 euro l'anno. 4.000 euro l'anno, su un introito di 1.000 euro al mese, cioè un terzo dei suoi introiti annuali. Ma presente che questi 1.000 euro al mese mi devono servire per pagare tutte le spese correnti, diciamo, no? Certo. L'acqua, luce, gas, riscaldamento che quest'anno non ho usato perché non posso permettermelo. il condominio, insomma tutte le spese correnti, e da questo tolgo anche 4.000 euro l'anno per due fondi che francamente a questo punto sono quasi tentato di prendere il piccone e buttarli giù, perché certo, giustamente, perché naturalmente essendoci la crisi nemmeno se li comprano più, cioè non c'è nessuno li vuole comprare. Senso, guardi, sono due anni che tento, ho cominciato col cercare di affittarli, niente da fare, le ditte chiudono, se gira Firenze qua per la città è un deserto, è una cosa paurosa, vie, piazze che prima erano vitali, piene di attività, piene di negozi aperti, oggi vendesi e affittasi. E chi compra, chi vende? Sì, ci sono gli squali che vengono e per il prezzo di due rate mensili di IMU vorrebbero prendersi il capannone, certo. Allora resti un attimo con noi, Lombardo. Gianni Trovati del Sole 24 Ore, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a voi. Allora, voi oggi dedicate l'apertura e ampie pagine a questo enorme cantiere sulla casa e a quella che si diceva che è un'incertezza fiscale pazzesca, nel senso che ci hanno sospeso quest'IMU, non abbiamo visibilità sulla riforma e quindi nella sostanza non sapremo se la... ad esempio se la uniranno alla TARES, altro grande problema, altro problema enorme. Nel frattempo i comuni si muovono, come hai ben raccontato ieri, e si muovono, e come vuoi che si muovano, aumentano le tasse verso l'alto, si muovono nel senso che proprio questa incertezza che dicevi tu e questa mancata visibilità che diciamo è sull'IMU ma è un po' su tutti gli aspetti dei bilanci locali, chiaramente spinge molti sindaci a mettersi un pochino al riparo dal rischio di brutte sorprese, ed è questo è quello che più ci interessa da vicino, diciamo, un costo fiscale che l'incertezza ha. Noi già l'avevamo raccontato l'anno scorso, perché già l'anno scorso sull'IMU c'erano stati parecchi problemi che però riguardavano solo l'IMU e che per una serie di questioni avevano portato a un costo fiscale in più, cioè a un aumento di aliquota superiore ai tagli e quindi trasferito direttamente ai cittadini di circa 2 miliardi di euro. Perché? Perché il sindaco tipo, diciamo, se a luglio, agosto, settembre non ha idea di quali sono i fondi del comune per quell'anno lì, chiaramente è spinto ad aumentare le aliquote, perché dice: se i fondi preventivati vengono cambiati oppure se quello che io ho preventivato non trova riscontro, io in qualche modo devo far quadrare i conti, devo mandare avanti le attività normali di un comune, i servizi, gli asili nido, eccetera, e quindi alzo le aliquote più del dovuto. Se questo è successo l'anno scorso, quando l'incertezza era solo su una questione di IMU legata alle compensazioni, figuriamoci cosa può succedere quest'anno quando l'incertezza è globale. Certo, naturalmente, come sentiamo il problema adesso, guardate, non è per prendersela con il PDL, perché chi se ne frega, però come avete sentito dalla storia che abbiamo appena raccontato, non è che la prima casa la questione, insomma, almeno non solo la prima casa. Ma diciamo che allora da un punto di vista... Aspetta Gianni, però con questo io ne voglio parlare con Flavio Lorenzin, che è presidente di Apindustria Vicenza, buongiorno. Sì, buongiorno. Parliamo un po' di IMU sui capannoni, va? Sì, l'IMU sui capannoni, io ci terrei a dire che a precisare che il capannone per l'imprenditore, per l'impresa, è la prima casa, visto che io passo molte più ore in azienda che non... Noi imprenditori passiamo molte più ore in azienda che non nelle nostre residenze. Oltretutto l'IMU per le imprese, l'IMU viene pagata tre volte, perché prima paghiamo l'IMU, dopo, siccome l'importo non è deducibile, sullo stesso importo ci paghiamo l'IRES e anche l'IRAP. Che bello Lorenzin. Senta, ma che cosa avete intenzione di fare? Perché insomma oggettivamente la situazione non si regge. Io adesso non è che ieri qualcuno mi ha scritto su Facebook: state facendo una trasmissione, sembra un comizio di Grillo. Ma non è un comizio di Grillo, guardi, la situazione reale del paese è questa, cioè è inutile stare là a raccontarsela, insomma, no? Che volete fare, Lorenzin? Allora, noi la nostra idea è quella comunque, sicuramente di continuare a parlare con la politica, perché la mia opinione è anche quella che noi imprenditori per troppo tempo abbiamo curato, cioè ci siamo impegnati a produrre e a far rendere le nostre imprese e abbiamo lasciato che la politica si gestisse da sola, e adesso dal mio punto di vista ne stiamo traendo le conseguenze e pagando il conto finale. E certo è che a questo punto non ce la facciamo mica più. e quindi per noi è veramente arrivato il momento di confrontarci con la politica, ma sul serio. Senta, mi dica una cosa, ne abbiamo parlato in apertura perché c'è un altro elemento interessante che mi preme sottolineare in merito a questo nuovo adempimento inserito all'interno del decreto del fare, che già sta suscitando la protesta in particolare naturalmente delle imprese dell'edilizia, perché riguarda prevalentemente loro, questo maledettissimo DURT, il documento unico di regolarità tributaria, che di fatto è una roba che se non la presenti ti bloccano i pagamenti. Così funziona? Sì, allora diciamo che innanzitutto non è che riguardi solo le attività legate all'edilizia, perché questo provvedimento riguarda tutta la filiera produttiva industriale, quindi tutte le aziende di subfornitura e i loro committenti devono rispondere a questa norma, e stiamo parlando forse del 70% delle imprese italiane, quindi la cosa è molto più grave, pur che fosse grave per il discorso dell'edilizia, però di fatto è molto più grave perché riguarda qualsiasi attività produttiva è eseguita in filiera, quindi... Come, quando... Lorenzin, come funziona questa cosa? Allora, voi dovete comunicare, se siete un subappaltatore, dovete comunicare i vostri dati e i dati degli stipendi all'Agenzia delle Entrate, sì, sostanzialmente. E poi lei deve attestare a chi, all'appaltatore principale, che voi siete regolari dal punto di vista contributivo, altrimenti niente, sì, soldi. Esattamente, cioè, di fatto funziona esattamente così, purtroppo nella pratica non è mica che sia così semplice e banale, perché per le imprese significa dover comunicare una infinità di dati all'Agenzia delle Entrate, dopodiché con i tempi del sistema statale o pubblico italiano, sperare di avere, quando ci servono, uno Stato in grado, un sistema in grado di fornirci la conferma di quello che noi abbiamo già fatto, però con un problema in più, cioè già è una follia, perché chi conosce il DURC, sì, conosce diciamo già la follia di quel tipo di adempimento. Questo è anche peggio perché si estende in moltissime più aziende, moltissime altre situazioni, però con un problema in più per l'impresa: in caso di difficoltà è possibile rateizzare quei tipi di diversamenti, sì, e questo com'è che lo gestiamo? Io posso essere in regola nel senso che ho chiesto allo Stato di poter rateizzare i versamenti di contributi piuttosto che i versamenti di IVA e quant'altro, ma è chiaro che lo Stato non può certificarmi che sono a posto con i versamenti. Quindi, è proprio, ma l'equivalente, mi creda, il mio fiscalista l'ha trovata, l'ultima aberrante trovata, l'ha definita così. Così. Senta, sì, una cosa, e poi rimane con noi, però insomma, certo, le faccio quest'ultima domanda per il momento. Ieri abbiamo avuto il presidente degli artigiani milanesi, ospite, hanno fatto una ricerca, o meglio, un sondaggio tra i loro aderenti, tra una parte dei loro aderenti, nei giorni scorsi, nel quale provocatoriamente, ma nemmeno troppo, hanno detto: sareste favorevoli a fare uno sciopero fiscale? Il 40% ha detto sì. Un'ipotesi di questo genere le sembra ipotizzabile, una cosa di questo genere? Allora, sinceramente, per quello che noto io da parte dei miei imprenditori, non c'è. Allora, c'è una grande propensione alle dichiarazioni, no? All'esternazione di grandi propositi. Purtroppo da parte degli imprenditori, però, spesso dopo, quando si passa ai fatti, le cose cambiano. Io per esempio ai miei associati, e sono circa 1100 in provincia di Vicenza, a dicembre dello scorso anno avevo proposto l'eventualità di fare una mini serrata, una chiusura di mezza giornata a ridosso delle elezioni per protestare contro un sistema politico che non ci ascolta. Molti mi hanno detto di sì, la cosa sembrava molto molto diciamo interessante per gli imprenditori, però di fatto di 1100 aziende a me hanno detto di sì circa un 150, troppo poche. Chissà adesso Lorenzin, eh? Come? Chissà adesso Lorenzin, che dice? Diciamo, sa una cosa, gli imprenditori sono comunque sempre delle persone votate al lavoro e non votate alla protesta. Però sicuramente non dico di no a uno sciopero fiscale, anche se secondo me non si dovrebbe arrivare lì. Allora, io sono sempre dell'idea, sa, adesso questo, sì, che i conti vanno pagati. Sì. Dobbiamo fare in modo che non ci ripresentino inadeguati. È una questione di punti di vista, no? Ok, ok. Guardi, ne riparliamo tra un attimo. Intanto sì, voglio sentire qualche ascoltatore. Ermanno dalla provincia di Monza e Brianza. Ammesso che debba esistere la provincia di Monza e Brianza, però insomma, prego, prego Ermanno, prego. Mi scusi, ma anche questa è un'altra ennesima scoperta del nostro favoloso governo. Va bene. Okay. Mi scuso con lei e con gli ascoltatori. No, male pare, prego, prego. No, stavo spiegando prima alla signorina che gentilmente mi ha risposto che io con mio fratello abbiamo una società, produciamo biciclette, e abbiamo preso la decisione che nel prossimo futuro, con il dolore nel cuore, ma ce ne andremo all'estero. Io sinceramente non ne posso più, tutti i giorni ce n'è una nuova, tutti i giorni c'è un battello nuovo, questa gente non ha capito nulla di quello che sta succedendo, vivono nel loro mondo, secondo me non prendono l'automobile e non girano, non si rendono conto, guardi, io sentivo pochi minuti fa quel signore che diceva che ha due capannoni, non riesce ad affittarli, non riesce a venderli. Io sono esattamente nella stessa condizione. 4 anni fa addirittura con mio fratello comprammo dei terreni per costruire, per fare impresa, per andare avanti. Oggi siamo nella condizione che questi terreni ce li mangeremo, perché non c'è più nulla da fare, non si possono più vendere. Non si può fare più nulla, non hai aiuti da nessuno, zero, non solo, ma... Dove ve ne andate, Ermanno? Dove vi trasferite? Ce ne andremo in Svizzera. Mm. Guardi, io dicevo prima alla signorina che ho ricevuto una visita da una commissione del Canton Ticino, questi signori stanno visitando delle aziende che secondo loro per prodotto o per tecnologia o per immagine e quant'altro sono per loro appetibili, e ti mettono sulla scrivania delle proposte che sinceramente, ripeto, non si possono rifiutare, è impossibile. Certo, non solo Ermanno, poi insomma questo sarà un altro tema. In realtà le dico la verità e guardo già Alessandro Marcotulli in preparazione della trasmissione di domani, era un tema che avevo intenzione di trattare domani, perché ho avuto occasione ieri di andare a cena con degli amici, tra cui un imprenditore, il quale mi ha raccontato che un suo dipendente è andato da lui e gli ha detto: ma che cosa ci stiamo ancora a fare in Italia? Quindi una questione interessante, perché poi non è solo una questione di tax rate, come spesso si è detto, ma è una questione di pianificazione, perché questi vengono e ti dicono: tu per i prossimi 5 anni paghi questa quota di tasse e io non ti rompo le scatole. È così, Ermanno, no? Esatto. È quello. Ma certo, ma non è una questione di risparmio, è una questione di sicurezza. Di sicurezza io, e di vita, certo. Esatto, ma addirittura certo. Le dico, io prima di prendere questa decisione ho chiamato i miei dipendenti, gli ho spiegato la situazione, sono delle persone stupende, mi seguiranno tutti mi seguiranno. Guardi, mi viene come mi viene da piangere, perché, santo Dio, io sono italiano, ma perché me ne devo andare? Spiegatemi perché io me ne devo andare. Non è possibile, 30 anni di azienda, di sacrifici, me ne devo andare, ma non è possibile, santo Dio, ma che si sveglino, facciano qualcosa. Io ho amici che si sono uccisi, altro che storie, gente che ha chiuso per crediti, non per debiti, ma io veramente sono basito quando sento questa gente che farà un decreto del fare, ma io non lo so, io quando mi alzo la mattina faccio, non devo fare una legge per fare, io devo fare se voglio vivere e se voglio dar da mangiare ai miei dipendenti. Questi non l'hanno ancora capita, noi stiamo raschiando il fondo, non ce n'è più, non sappiamo più cosa fare, siamo alla disperazione, ma veramente è assurdo. Se, guardi, se dovessimo andare a votare, io sinceramente non saprei cosa fare, perché qui non è più questione di votare il migliore, ormai siamo arrivati al punto di votare il meno peggio. Cose da pazzi. Sì, questo forse da qualche anno, a dir la verità, Ermanno. Facciamo una cosa, resti con noi, va, che la sua voce mi piace, il suo racconto mi piace, anche il cuore che ci mette come imprenditore. 9 in punto. Ci dite, dell'IRAP non ne parliamo. Oh, scusate, oggi sembrerà che ce l'ho con il PDL, ma davvero non ce l'ho. Però proprio ieri avevo sotto mano un libro, firma Mario Portanova, di qualche anno fa, si chiama Dichiarazia. E tra le varie cose mi è caduto sotto l'occhio questo: 19 marzo 2005, Bari, assemblea della piccola impresa, parole di Silvio Berlusconi. Posso annunciare sin da ora che con la prossima finanziaria non ci sarà più l'IRAP, la cancelleremo. Ida da Torino, buongiorno. Buongiorno, scusi, spengo solo l'aspirapolvere. Sì, allora, prego. Bisogna prendere, non bisogna mai fermarsi. Senta, a me succede una cosa molto brutta, nel senso che l'ICI, e adesso IMU. Ha un grosso problema, cioè per le seconde case. Io ho un piccolo alloggio a ULS, che è in Alta Val di Susa, e molte persone, direi, cioè non solo a ULS ma in tutta la valle e anche in altre valli, prendono come prima casa la residenza. Sì. E il comune dice: va bene, fatevi trovare per un mese dentro il vostro alloggio e noi vi diamo la residenza. Peccato che la moglie abita lì, il marito abita lì nella abitazione principale, e i figli hanno altri alloggi e sempre prima casa, capisce? Certo. Una serie di prime case a seconda del numero dei componenti della famiglia, il numero di prime case si amplia. Mentre certo. Invece lì la legge dice abitazione principale, cioè certo. Quando io con mio marito abbiamo già scritto 1000 volte al sindaco. E lui fa orecchie da mercante e non risponde neanche. Ho parlato con lui direttamente perché l'ho visto un giorno in paese, gliel'ho detto e lui ha detto: sono consapevole di questa cosa, però noi dobbiamo come comune avere 3000 abitanti per avere delle agevolazioni. E io ho detto: ma mi scusi, ma prende in giro noi che paghiamo seconda casa, perché è logico così, e poi c'è di mezzo anche non solo la non pagare l'ICI e adesso IMU, ma c'è anche la luce prima casa. La spazzatura prima casa, c'è un mucchio e mezzo di cose. Certo. E poi oltretutto la cosa che poi fa anche arrabbiare: quando si acquista una casa c'è anche il 4% sulla prima casa, capisce? Ida, è chiarissimo. Gianni Trovati, questione abbastanza diffusa in realtà questa. Sì, in tutti i posti turistici abitano teoricamente mogli, mariti, con giunti vari in finte abitazioni principali, secondo una possibilità di eludere sostanzialmente. La dico brutta, Gianni, però forse anche un meccanismo di autodifesa a un certo punto. No, ma per carità, diciamo, è un meccanismo di elusione che c'era nell'ICI, non c'era nell'IMU iniziale, e poi però il primo correttivo, diciamo, all'IMU ce l'ha messo dentro. Qual è il problema dell'IMU e di tutte le storie che abbiamo sentito? È evidente che, diciamola in maniera provocatoria, l'IMU non funziona. L'unica parte che più o meno è razionale è quella sulla abitazione principale, perché c'ha le detrazioni, c'ha una serie di alleggerimenti, è uguale sostanzialmente a quella che si paga nel resto d'Europa. La politica, non solo il PDL ha detto di abolirla, eccetera, il PD ha detto di toglierla per quasi tutti, Scelta Civica di Monti, quelli che l'hanno messa nella programma elettorale al primo punto avevano togliere l'IMU per l'80% certo. delle giustamente loro avendocela messa sono quelli che la conoscono meglio. Tutto il resto dell'IMU, gli altri 20 miliardi su 24 totali, quello dei capannoni che dicevamo sì. prima, eccetera, fino a che una campagna di stampa, un po' gli imprenditori, eccetera, hanno tirato fuori il problema, non ne parlava assolutamente nessuno, al punto che quest'anno, mentre si discuteva dell'IMU sull'abitazione principale, mentre si sospendeva l'IMU per l'abitazione principale, l'IMU dei capannoni cresceva ancora per quell'aumento dei moltiplicatori certo. maledetti, e cioè il tutto nel silenzio generale. È evidente, tutti quelli che parlano dell'IMU in politica dicono che l'IMU ha ucciso il mercato immobiliare, frena gli investimenti, eccetera, eccetera. È tutto vero, ma non l'IMU sulla prima casa, è l'altro. Sono certo. i 20 e rotti a questo punto, miliardi su 24, che in effetti hanno prodotto nel passaggio dall'ICI all'IMU una moltiplicazione per 2, per 3 in un anno solo dell'imposta, perché i 4.000 euro del capannone che sentivamo all'inizio della trasmissione, con l'ICI erano 1.000, 1.200, 1.300. Chiaramente non c'è nessun settore che possa sopravvivere a una moltiplicazione per 3 di tasse in un anno solo. Sono tutte norme che, appunto, come confermano le storie che abbiamo sentito, sono fatte, diciamo, probabilmente senza metterci un minimo di testa, senza aver pensato mai né a un'azienda, ma neanche a un negozio, no? Neanche visti in fotografia. Si parlava del DURT come ultima trovata. Beh, la penultima, sempre nel decreto del fare, un'ipotesi che era emersa fuori, lo spesometro, quell'obbligo che sì. i commercianti, per esempio, hanno di trasmettere una volta all'anno all'Agenzia delle Entrate diciamo le transazioni superiori a un certo valore. Si è ipotizzato, dice, togliamo lo spesometro se voi mandate all'Agenzia delle Entrate il corrispettivo tutti i giorni. Poi è saltata questa cosa, sì, ci però, tranquillizzi. Però voglio dire, sono ipotesi che si fanno anche con intenti nobili, perché questa era nata sì. come semplificazione, ma come si può pensare che una persona possa mandare tutti i giorni? Allora a quel punto gli diamo anche lo stipendio da funzionario dell'Agenzia delle Entrate. Giustamente. Io spero veramente che ci siano, come so che alcuni ce ne sono, spero veramente che ci siano dei parlamentari in ascolto, così quello che stiamo raccontando oggi e le voci che stiamo sentendo possono aiutarli, così come aiutano anche noi alla fine, perché un po' di mondo, un po' nel mondo orato ci viviamo anche noi giornalisti. Ci aiutano, li possiamo aiutare a fare un bagno di realtà. Ci aiuta anche Eugenio Massetti, presidente di Confartigianato Lombardia. Buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno. Allora, lei naturalmente è un imprenditore, cosa che azienda ha? Che cos'è? Ma io ho una tipografia tradizionale. Una tipografia tradizionale. Quanto lo scatto ICI IMU quanto è stato? Vabbè, è moltiplicato almeno di 3 volte. Come si moltiplicherà la Tarsu diventando Tares, ha fatto un balzo in avanti di 2 o 3 volte a seconda dei comuni, solo che sono tasse che nascono per semplificare, per accorpare, ma è l'occasione per moltiplicare i costi a favore naturalmente delle casse pubbliche a discapito di chi lavora. Un po' come l'IRAP, io quando sento accorpiamo IMU e Tares tremo, perché l'ultimo accorpamento forte di tasse che c'è stato è stato esattamente l'IRAP e abbiamo visto com'è andata a finire. Sono i politici, sono vittime delle loro stesse promesse elettorali, togliamo le tasse per poi trovarsi a governare e a doverle reintrodurre. Allora con la magia del diminuiamo le sigle, le accorpiamo, ma nel frattempo triplicando quello che ne Gianni Trovati, quante ne accorpava? 9 l'IRAP? Forse una dozzina. Semplifichiamo e poi metti dentro un meccanismo perverso, devastante per le aziende. Allora, Massetti, che aria tira dai suoi? Sono imbestialiti? Guardi, in Lombardia, ma in tutto il nord, ma in definizione come area geografica, che dovrebbe tirare un'area diversa rispetto al resto dell'Italia, perché abituati a trainare quello che è l'Italia, non tira per niente una bella aria, anzi, se tirano brutta aria da noi, immagino nel resto dell'Italia. Tirano una brutta aria a tal punto che dall'essere scontenti, dall'essere arrabbiati, siamo arrivati alla sensazione di essere impotenti, che è la cosa, è lo stato peggiore, ma è anche l'ultimo stadio per poi purtroppo far scattare una reazione che io spero che non sia una reazione di un certo genere. Cioè, quando un imprenditore... Cioè, lei teme una reazione violenta? Ma no, io non parlo di violenza, parlo di... l'esasperazione porta a tante reazioni, che una delle più diffuse è quella di abbandonare l'Italia e di andare, malgrado l'attaccamento al territorio, magari l'attaccamento alla nostra attività, ci porta e porta tantissimi imprenditori ad andare fuori, in Austria, in Croazia, in Svizzera, tanti se ne vanno all'estero spacciando la necessità per opportunità di lavoro all'estero, in realtà è una necessità perché qui è praticamente impossibile lavorare, ma lo dico veramente con tutto lo sconforto possibile di chi ha lavorato anni, di chi vuole lavorare, di chi crede in questo paese o vuole crederci perché alla fine siamo italiani. Noi assistiamo all'invasione da parte di tanti extracomunitari oppure anche da parte di tanti comunitari, perché per loro l'Italia è l'Eden, è l'America, e mentre invece noi che siamo nati qui siamo costretti a guardare altrove per poter sopravvivere. Questa è la cosa peggiore alla quale assistiamo oggi. Adesso non parlerei di invasione, anzi parlerei di un deflusso. No, abbia pazienza, no, ma Massetti, guardi, i numeri parlano di un deflusso. Poi dico, insomma, possiamo chiamarlo come vogliamo, però i numeri parlano di un deflusso anche da quel lato, il che anche è un segnale preoccupante, cioè vuol dire che nemmeno gli immigrati vedono più l'Italia come un Eden. Ne vogliamo parlare anche di questo, cioè, secondo me rappresenta un problema. Marco dalla provincia di Varese, buongiorno. Sì, buongiorno, sono consulente aziendale internazionale, sono italiano e ho uno studio a Lugano, e come dicevo la segreteria vostra ha ragione, signor Massetti, io ho dalle 3 alle 5 richieste alla settimana di aziende italiane che desiderano migrare definitivamente in campo agricolo, cioè i numeri parlano da sé, il resto, complimenti per la trasmissione, ma parlano da sé, va da quello che ha una piccola azienda tipografica a quella che ha un prodotto d'abbigliamento medio fine, perché l'italiano, io ricordo quando andai a Dubai parecchi anni fa, dicevano Giorgio Armani cappuccino, mangi bene, vesti bene, no? Ecco, su queste cose noi siamo forti, siamo ancora cercati, ma dobbiamo andare via, e questo dice tutto, ecco, questo lo dico anche con rabbia. Lo immagino, sei italiano, immagino che lo dica con rabbia. Ma quindi un po' di tutte le dimensioni anche, Marco. Sì, sì, allora ci sono aziende che possono essere considerate quartigianale e quartigianale hanno i loro 6-7 dipendenti, all'azienda che ne ha 20-25 e dicono mi dia le indicazioni per poter venire qua. Non ce la fanno più, molto semplicemente. Il bello, sa cosa? La cosa, dottor Spezia, sa la cosa bella? Che ieri un cliente mi ha detto... ho avuto la proposta di firmare delle commesse a settembre per il 2016. 2016! È follia pensare da noi di poter firmare delle commesse per il 2016. Stiamo pensando di come arrivare rimandando leggi, come lei giustamente ha detto. No, io ho sentito adesso l'ultima battuta di Mercedes. Ha ragione. O la Svizzera, oppure dove? Perché è quella più vicina, e non è solo il nord come dice, cioè c'è da immaginarsi che ci sono aziende che chiedono da Firenze, da Prato, che era la zona dove i cinesi si sono insediati più fortemente, si stanno spostando anche loro, ci sono delle società, chiaramente hanno fatto la loro SRL a un euro qua in Italia, l'hanno concesso a loro, conoscono molto bene le leggi, le abbiamo fatte per loro. Hanno preso un mercato a un costo bassissimo, gli abbiamo concesso anche questo, va bene, però noi adesso stiamo andando via, cioè il produttore italiano, quello che tratta il prodotto veramente italiano, il made in Italy, non importato il prodotto grezzo per pagare pochi dazi all'importazione e poi lavorato dai cinesi in Italia. Io parlo del made in Italy fatto made in Italy, no? E se ne sta andando e va via con i propri dipendenti, buona parte le configurano ovviamente il contratto da frontalieri, molto più appetibile anche quello. Ovviamente, ovviamente, ovviamente, ovviamente. È una famiglia, c'è ovviamente. Chi ha 2 figli, 3 figli. Ti piazzi là, stipendio svizzero, anche tu fiscalmente avvantaggiato, con una vita burocraticamente più semplice, ti piazzi oltre confine e che problema c'è? Anche questo è comprensibile. Prospetto che a 9 in punto radio24.it ci arriveranno un po' di mail di imprenditori per chiedere il contatto con Marco che ci ha chiamato da Varese. 9 in punto. Allora sentiamo un altro paio di ascoltatori, poi voglio ricoinvolgere e la preparo, Ermanno, la voglio ricoinvolgere perché insomma mi va anche di dare, trovi un segnale di speranza in tutto questo e dopo il racconto che ci ha fatto prima, anche doloroso e toccante, che comprendiamo, e insomma intanto se lo prepari, intanto ci sentiamo Paolo da Mantova, buongiorno. Buongiorno. Prego. Sono un imprenditore tessile e volevo solamente sollecitare. Lei cosa fa, se ne va? Pronto? Sì, Paolo, lei cosa fa, se ne va? Dall'Italia? No, ma ti sto pensando sentendo la radio. Perché il problema è che in effetti stiamo parlando di defiscalizzazione, di assunzioni con incentivi, ma il problema vero per noi imprenditori è avere il lavoro, poi potremmo pensare a assumere e a portare avanti tutto quello che è necessario, ma se non c'è una strategia di respiro sull'agroalimentare, sul tessile, nei settori dove siamo forti e quindi non si investe in questi settori, si creano posti di lavoro, tutto il resto rimangono parole che non servono a niente. Posso assumere un ragazzo di 20 anni con 5.000 euro di incentivo e licenzio quello vecchio per prendere quello, se non ho un lavoro non mi serve. Guardi, abbiamo dedicato una puntata esattamente a questo, a quanto effettivamente servano incentivi di questo tipo, perché appunto se non c'è, se le imprese non producono naturalmente non hanno bisogno di lavoratori. Quanti dipendenti ha la sua azienda? 26. Quindi sono un'azienda più o meno media, sono piccolo media. Ermanno, adesso però mi dia, si è preparato, ci ha pensato, mi dia un segnale di speranza. Va. Ma sa che faccio fatica a trovarlo? Ma io sarebbero delle cose molto stupide e banali che io cerco. Ma le faccio un esempio molto terra a terra in modo che tutti possano capire. Nella mia azienda io pago una tassa sui rifiuti. In uno stato normale significa che io posso mettere all'esterno della mia azienda i rifiuti che produco. In Italia non è così. Tu paghi la tassa sui rifiuti, dopodiché se hai dei cartoni, degli scatoloni da buttare via, scopri che se ne metti fuori più di 2 kg, l'azienda non te li ritira. Quindi devi procurarti il sistema per portare i tuoi rifiuti presso le varie sedi, ma non è sufficiente perché tu arrivi lì, devi avere il registro di scarico dei rifiuti, ogni volta che ci vai a una storia, cioè è un esempio stupido, ma per far capire che io non ho né più tempo né più voglia di correre dietro a queste cose. In uno stato normale, nel momento in cui io pago per un servizio, scusatemi, ma lo pretenderei. Ma questo è un esempio. Un altro esempio è che io sono stufo di vedere gente che mi viene a prelevare nelle tasche. Le faccio, guardi, con tutto il cuore, 15 giorni fa funzionari delle dogane arrivano nelle mie aziende perché noi col prodotto che facciamo abbiamo dei componenti che vengono importati. Siamo sotto dogana, per cui vengono a fare i controlli. Le dico, queste 2 persone sono rimasti da noi una settimana spulciandoci tutto pur di trovare qualcosa. Hanno trovato una virgola fuori posto e sfido un'azienda italiana ad essere al 100% in regola, visto che tutti i giorni ce n'è una nuova, fino a quando poi non sono riusciti a farmi un bel verbale. Questi vogliono i nostri soldi, punto, non c'è storia. Io quando parlo con i miei colleghi dico che ormai siamo in uno stato di polizia fiscale. Mm. Io dico, io sono pronto ad andare in galera se questi dimostrano che io ho rubato un euro. Dato che non è così, io pretendo di essere rispettato come imprenditore. Allora, la fermo. Lorenzo, dalla provincia di Reggio Emilia, buongiorno. Buongiorno. Lei che fa di mestiere? Io faccio agente commerciale per export di marmi, attrezzi per posatori in Australia e Nuova Zelanda. Come vanno le cose? Vanno abbastanza bene, anche se il mercato australiano dipende molto dalla Cina, adesso è un po' fermo, però non ci si può lamentare. Non ci si può lamentare, abbiamo un minuto, mi dica. Io ero ex consigliere in un'amministrazione comunale di Reggio Emilia, Quattro Castelle esattamente. Storia veloce del ICI IMU. Governo Prodi ha esentato il 40% della popolazione a pagare l'IMU prima casa. Governo Berlusconi Lega ha tolto l'IMU, ex ICI, e promettendo di restituire ai comuni il 100%. L'IMU, ricordiamo, è l'unica o una delle pochissime tasse. Sì, non me la faccia lunghissima, venga al punto, Lorenzo. Bene, ci hanno tolto l'unica tassa federale, cioè i cittadini pagavano il comune direttamente e il comune li investiva in servizi. Non è stata restituita tutto l'IMU ai cittadini, adesso addirittura che è stata rimessa, la vogliono ritogliere a tutti. Secondo me è giusto esentare alcune fasce della popolazione che non possono effettivamente permettersela, l'IMU prima casa, ma se no è uno spot. Grazie Lorenzo. Allora, siamo quasi in chiusura. Silvia da Padova è con noi, buongiorno. Sì, buongiorno. Allora, io sono un'imprenditrice. Perfetto. Allora, guardi, mi hanno scritto che è un'imprenditrice di Padova. Guardi, dato che abbiamo da fare domani mattina dopo le 9:10. Ci sentiamo domani mattina dopo allora le 9:10. Allora, facciamo una cosa. Perché io ho una proposta di imprenditori. Benissimo, benissimo. Del nord vorrei fare. Allora, domani la sentiamo la sua proposta agli imprenditori del nord, perché adesso dobbiamo chiudere. Grazie come sempre ad Alessandro, Marco Tulli in redazione, Roberto Scaltritti in regia. Grazie a Gianni Trovati che è stato grazie con noi. Chiedo scusa ad Eugenio Massetti se l'ho fatto parlare poco. Lo saluto e lo ringrazio. Ringrazio come sempre tutti voi per l'ascolto, gli altri ascoltatori che non sono riuscito a far intervenire. Ci sentiamo domani dopo il GR delle 9. Radio 24. La passione si sente.